ad alta voce. Ilya Shilton legge «La morte di Ivan Ilyich» di Lev Nikolaevich Tolstoi. Traduzione di Chiara Nataluzzi. La storia della vita di Ivan Ilyich era la più semplice, la più comune e la più terribile. Ivan Ilyich era morto a 45 anni, giudice di corte d'appello. Era figlio di un funzionario che a Pietroburgo, tra un ministero e l'altro, aveva fatto carriera, garantendosi quella posizione in cui, per anzianità di servizio e grado, le persone non possono essere licenziate, nonostante sia palese che non siano adatte a svolgere nessun lavoro in particolare e per le quali si inventano posti di lavoro fittizi ma retribuiti con stipendi reali da migliaia di rubli, da 6 a 10, con i quali arrivano fino alla più tarda vecchiaia. Tale era il consigliere segreto, inutile membro di inutili istituzioni, Ilya Yefimovich Galavin. Aveva avuto 3 figli maschi, Ivan Ilyich era il secondo. Il maggiore aveva fatto la stessa carriera del padre, soltanto in un altro ministero, e si stava avvicinando a quell'età di servizio che porta per inerzia a ricevere uno stipendio. Il terzo figlio era un disgraziato. Si era cacciato nei guai in diversi posti di lavoro e ora prestava servizio nelle ferrovie. Tanto il padre quanto i fratelli, e soprattutto le loro mogli, non solo non amavano incontrarlo, ma non si ricordavano neppure della sua esistenza, se non in caso di estrema necessità. La sorella di Ivan Ilyich aveva sposato il barone Greff, un funzionario pietroburghese come suo suocero. Ivan Ilyich era le phénix de la famille, come si diceva. Non era freddo e meticoloso come il maggiore, né disperato come il minore. Era una via di mezzo fra i due, un uomo intelligente, vivace, piacevole e decoroso. Aveva studiato all'Istituto di Giurisprudenza insieme al fratello minore. Il minore non portò a termine gli studi e venne espulso in quinta. Ivan Ilyich, invece, uscì con buoni voti. Già ai tempi dell'Istituto di Giurisprudenza era quello che sarebbe stato in seguito per tutta la vita, un uomo capace, allegro e socievole, ma che compiva scrupolosamente il suo dovere. Ed egli riteneva che il suo dovere fosse quello ritenuto tale dalle persone altolocate. Non fu mai un adulatore, né da ragazzo né da adulto, ma fin dagli anni più giovanili si sentì attratto dalle persone altolocate, come una falena si sente attratta dalla luce. Ne assimilava i modi, i punti di vista e con loro stringeva relazioni di amicizia. Tutti gli entusiasmi dell'infanzia e dell'adolescenza non avevano lasciato un gran segno su di lui. Si era lasciato andare alla lussuria e alla vanagloria e verso la fine, nelle ultime classi, anche al liberalismo, ma sempre entro i limiti precisi che gli indicava il suo istinto. All'Istituto di Giurisprudenza aveva commesso delle azioni che, se dapprima gli erano parse delle enormi porcherie e gli avevano provocato ribrezzo per se stesso, in seguito, avendo visto che anche le persone altolocate avevano compiuto quelle stesse azioni senza considerarle deprecabili, pure lui iniziò a considerarle accettabili, tanto che se ne dimenticò del tutto e smise di rammaricarsene. Uscito dall'Istituto di Giurisprudenza come funzionario di decima classe e ricevuti dal padre i soldi per la divisa, Ivan Ilyich ordinò un abito da charmeur, si mise al collo una medaglia con la scritta Respice Finem, si congedò dal direttore e istitutore, pranzò con i suoi compagni da Donon e con la sua nuova valigia alla moda, la biancheria, il vestito, gli accessori per la rasatura e la toletta e un plaid, il tutto ordinato e comprato nei migliori negozi, partì per la provincia con un posto che gli aveva procurato il padre come funzionario del governatore con incarichi speciali. In provincia Vaniliche si creò una vita facile e piacevole, come aveva fatto all'istituto di giurisprudenza. Lavorava, faceva carriera e al tempo stesso si divertiva in maniera piacevole e decorosa. A volte veniva mandato in trasferta per incarico del capo, si comportava con dignità sia con i superiori che con i subalterni e, con precisione e incorruttibile onestà, qualità della quale non poteva non andar fiero, svolgeva gli incarichi che gli affidavano, per lo più questioni riguardanti gli scismatici. Nonostante la sua giovane età e la sua predisposizione a una leggera spensieratezza, nelle questioni lavorative si dimostrava straordinariamente calmo, formale e persino severo, ma in società era spesso frivolo e arguto, sempre bonario e decoroso, il classico bon enfant, come lo descrivevano il capo e sua moglie, per i quali era diventato uno di casa. In provincia aveva avuto una relazione con una donna che si era invaghita dell'elegante giurista. C'era stata anche una modista. Aveva fatto bisboccia con gli aiutanti di campo arrivati in provincia e gite in carrozza dopo cena in strade lontane. Aveva fatto dei favori sia al capo sia alla moglie del capo, cose che però rientravano nella più alta sfera della moralità, tanto da non poter essere definite con brutte parole. Il tutto veniva semplicemente catalogato con la massima francese «Il faut que jeunesse se passe». Tutto avveniva con mani pulite, con camicie pulite, con parole francesi e soprattutto nell'alta società, quindi con l'approvazione delle persone altolocate. Ivan Ilyich lavorò così per 5 anni, fino a quando in Russia avvenne un cambiamento. Comparvero nuove istituzioni giudiziarie per le quali servivano persone nuove e Ivan Ilyich era una di quelle. Gli venne offerto il posto di giudice istruttore che accettò nonostante fosse in un altro governatorato e questo lo costrinse a interrompere le relazioni che aveva instaurato fino a quel momento e a doverne instaurare di nuove. Gli amici lo accompagnarono, si fecero una foto di gruppo, gli regalarono un portasigarette d'argento ed egli partì alla volta del nuovo incarico. Come giudice istruttore, Ivan Ilyich era come il fo, decoroso, capace di separare gli impegni lavorativi dalla vita privata e in grado di guadagnarsi il rispetto così come quando era un semplice funzionario con incarichi speciali. Il lavoro di giudice istruttore era per Ivan Ilyich molto più interessante e affascinante del precedente. Nel precedente incarico era piacevole camminare nella divisa di Charmeur con aria disinvolta vicino alle persone che aspettavano, trepidanti e speranzose, il proprio turno e vicino ai pubblici ufficiali che lo invidiavano. Era piacevole poter entrare nell'ufficio del capo e sedersi con lui a prendere il tè e fumare una sigaretta, ma le persone che dipendevano dalla sua volontà erano poche. Erano solamente i capi della polizia distrettuale e gli scismatici quando lo mandavano in trasferta. E gli piaceva trattare i subalterni in modo cortese, amichevole quasi. Gli piaceva fargli capire che nonostante avesse il potere di schiacciarli da un momento all'altro, li trattava invece con amicizia. A quel tempo, però, quelle persone erano poche. Ora, invece, da giudice istruttore, Ivan Ilyich sentiva che tutti, nessuno escluso, anche le persone più importanti e autocompiaciute, fossero nelle sue mani, che gli sarebbe bastato scrivere 2 righe su carta intestata e quella persona importante e autocompiaciuta sarebbe comparsa dinanzi a lui come imputato o testimone e sarebbe dovuta stare in piedi davanti a lui e rispondere alle sue domande, sempre che non gli venisse voglia di sbatterla in prigione. Ivan Ilic non abusava mai del suo potere, cercava anzi di limitarne gli effetti, ma la sola consapevolezza di quel potere e la possibilità di limitarlo erano per lui motivo di grande interesse e divertimento nei confronti del suo nuovo impiego. Nel lavoro, specialmente durante il processo istruttorio, Ivan Ilic aveva assimilato in fretta la tecnica di tenere lontano da sé tutto ciò che non aveva a che fare con il lavoro stesso, alleggerendo anche i processi più difficili in una forma tale che sulla carta risultassero i fatti così come si presentavano, senza far trapelare in alcun modo la sua opinione personale e soprattutto rispettando tutte le formalità richieste. Questo modo di procedere era nuovo. Infatti, egli fu uno dei primi ad applicare il codice del 1864. Trasferirsi in una città nuova significò per Ivan Ilic fare conoscenze nuove, intrecciare legami nuovi, assumere un atteggiamento nuovo e un tono diverso. Si teneva a debita distanza dal potere del governatore e scelse il circolo migliore, composto da ricchi aristocratici e giudici che vivevano in città, e prese a parlare con un tono di leggera insoddisfazione verso il governo, di moderato liberalismo e di spirito civile. Inoltre, per quanto nulla fosse cambiato nella sua elegante toilette, nel suo nuovo incarico Ivan Ilic smise di radersi il mento, dando piena libertà alla barba di crescere dove voleva. Anche nella nuova città la vita di Ivan Ilic scorreva piacevole. La società frondista al governatore era amichevole e cortese. Lo stipendio era più alto di prima e iniziare a giocare a whist aggiunse quel pizzico di piacere in più, dato che Ivan Ilic giocava a carte con allegria ed era dotato di perspicacia e velocità di ragionamento e quindi vinceva quasi sempre. Dopo 2 anni di servizio nella nuova città, Ivan Ilic conobbe la sua futura moglie, Praskovia Fyodorovna Michel. Era la ragazza più attraente, intelligente e brillante del circolo frequentato da Ivan Ilic. Tra i momenti di svago e quelli di riposo dalle fatiche del lavoro, Ivan Ilic iniziò a stringere con lei un rapporto frivolo e leggero. Quando Ivan Ilic era ancora un funzionario con incarichi speciali, ballava sempre. Da giudice istruttore, invece, ballava solo in via eccezionale e ballava nel senso che, seppur funzionario delle nuove istituzioni e per giunta di quinta classe, in fatto di ballo poteva dimostrare di saper ballare meglio di tutti gli altri. Così, di tanto in tanto, a fine serata, ballava con Praskovia Fyodorovna e soprattutto in quei momenti la conquistava e lei si innamorava perdutamente di lui. Ivan Ilic non aveva la chiara e determinata intenzione di sposarsi, ma quando vide che la fanciulla era cotta di lui, si chiese: ma in fondo, perché non dovrei sposare? La giovane Praskovia Fyodorovna era di buona stirpe nobiliare, graziosa, aveva un piccolo patrimonio. Ivan Ilic avrebbe potuto di certo ambire a un partito più brillante, ma in fondo anche questo non era male. Ivan Ilic aveva il suo stipendio, lei, lui sperava, avrebbe avuto il suo. Di buona famiglia, era una donna dolce, buona e completamente onesta. Dire che Ivan Ilic si sposava perché si era innamorato della sua fidanzata e aveva trovato in lei una corrispondenza di intenti, sarebbe alquanto ingiusto come dire che si sposava solo perché le persone del suo circolo approvavano quel partito. Ivan Ilyich si sposava per entrambi i motivi. Prenderla in moglie era un bene per lui e contemporaneamente faceva quello che le persone altolocate consideravano giusto. E Ivan Ilyich si sposò. Le nozze in sé e il primo periodo di vita matrimoniale, fatto di carezze, di mobili nuovi, di stoviglie nuove e di biancheria nuova, in generale trascorsero sereni fino alla gravidanza della moglie, tanto che Ivan Ilyich si ritrovò a pensare che il matrimonio non fosse di nessun ostacolo a vivere una vita piacevole, allegra, decorosa e approvata dalla società, caratteristiche che Ivan Ilyich riteneva proprie della vita in generale e che addirittura la esaltavano. Poi però, a partire dai primi mesi di gravidanza, successe qualcosa di nuovo, inaspettato, spiacevole, grave, indecoroso e da cui non riusciva a liberarsi. La moglie, senza nessun motivo apparente, come sembrava a Ivan Ilyich de gaieté de cœur, come si diceva, iniziò a turbare quella piacevolezza e quel decoro. Aveva iniziato a fare la gelosa senza motivo, pretendeva da lui attenzioni costanti, trovava da ridire su tutto e gli faceva scenate a dir poco spiacevoli. All'inizio Ivan Ilyich aveva sperato di liberarsi di questa situazione incresciosa assumendo quell'atteggiamento semplice e dignitoso che gli era venuto in aiuto in passato. Aveva provato a ignorare lo stato d'animo della moglie e aveva continuato a vivere facendo finta di niente, come prima, in modo leggero e piacevole. Invitava gli amici a casa per una partita a carte, andava lui stesso al circolo o in visita da amici. Ma una volta la moglie si infuriò e lo prese a male parole, tanto che Ivan Ilyich si spaventò e da allora prese a rimproverarlo ogni volta che lui non soddisfaceva le sue esigenze, fermamente decisa a non smettere fino a che lui non si fosse piegato alla sua volontà, e cioè che rimanesse a casa ad annoiarsi come faceva lei. Capì quindi che la vita coniugale, perlomeno quella con sua moglie, non sempre era fonte di piacere e di decoro. Al contrario, spesso era motivo di turbamento e diventava quindi indispensabile cercare di difendersi da questi soprusi. E Ivan Ilyich iniziò a escogitare le sue tecniche di difesa. Il lavoro era una cosa che Praskovia Fyodorovna guardava con rispetto e Ivan Ilyich, proprio grazie al lavoro e agli impegni che ne scaturivano, poté far fronte all'ostilità della moglie, riuscendo a crearsi un suo spazio indipendente. Con la nascita del bambino, i tentativi di nutrirlo e i diversi insuccessi a farlo, le malattie reali e immaginarie della madre e del bambino, tutti i momenti in cui la presenza di Ivan Ilyich era richiesta senza che potesse essere realmente d'aiuto, il bisogno per Ivan Ilyich di ritagliarsi un mondo tutto suo al di fuori della famiglia si fece ancor più impellente. Più la moglie diventava irritabile ed esigente, più Ivan Ilyich spostava il centro di gravità della sua vita sul lavoro. Iniziò ad amare sempre di più il suo lavoro e diventò più ambizioso che mai. Molto presto, appena un anno dopo il matrimonio, Ivan Ilyich capì che la vita coniugale, pur apportando alcune comodità, era in sostanza molto complicata e difficile, e al fine di compiere il proprio dovere, ossia condurre una vita decorosa e approvata dalla società, bisognava assumere anche in questo caso, come sul lavoro, un atteggiamento ben preciso. E quell'atteggiamento verso la vita matrimoniale Ivan Ilyich seppe escogitarlo. Dalla vita familiare si aspettava solo quelle comodità che essa gli poteva offrire, come un pranzo pronto, una casa pulita, un letto su cui dormire e soprattutto quel decoro delle apparenze, così come era richiesto dalla società. Per il resto Ivan Ilic cercava un'allegra piacevolezza e se riusciva a trovarla ne era molto felice. Se invece incontrava la resistenza e i brontolii della moglie, andava a rifugiarsi nel suo mondo separato ed esclusivo, dove trovava la piacevolezza che cercava. Ivan Ilic era considerato un bravo funzionario e dopo 3 anni lo fecero vice procuratore. I nuovi incarichi tanto importanti, la possibilità di procedere contro qualcuno e di spedirlo in prigione, i discorsi pubblici e il successo che ottenne, tutto ciò rese il nuovo lavoro ancora più divertente. Arrivarono i figli. La moglie diventò sempre più bisbetica e suscettibile. Ma l'atteggiamento escogitato da Ivan Ilic nei confronti della vita domestica lo rese quasi impenetrabile a qualsiasi brontolio. Dopo 7 anni di servizio nella stessa città, Ivan Ilic venne trasferito in un altro governatorato con l'incarico di procuratore. Si trasferirono, i soldi erano pochi e alla moglie non piaceva la nuova città. Lo stipendio era più alto di prima, ma la vita era più cara. Inoltre morirono 2 bambini, cosa che rese la vita familiare ancor più spiacevole per Ivan Ilic. Praskovia Fyodorovna accusava il marito di tutte le disgrazie che erano accadute da quando si erano trasferiti. La maggior parte degli argomenti di conversazione fra moglie e marito, soprattutto quelli riguardanti l'educazione dei figli, suscitava questioni che riportavano alla luce litigi passati e i litigi potevano scoppiare da un momento all'altro. Rimanevano, sì, rari momenti di innamoramento, ma non duravano a lungo. Erano delle isole dove rifugiarsi per un po', per poi rimettersi nel mare di celata ostilità che li allontanava l'uno dall'altra. Questo allontanamento avrebbe dovuto addolorare Ivan Ilic, se solo avesse ritenuto che così non doveva essere, ma ora egli considerava questo meccanismo non solo normale, ma anche il fine della vita familiare. Il suo scopo era quello di affrancarsi sempre più da questi momenti spiacevoli e di attribuirgli un carattere innocente e decoroso. E di fatto finì per trascorrere meno tempo con la famiglia e quando era obbligato a farlo faceva in modo di trovarsi in compagnia di altre persone. La cosa più importante rimaneva il lavoro. Nel mondo del lavoro era racchiuso tutto l'interesse della sua vita e questo interesse lo appassionava. La consapevolezza del proprio potere, la possibilità di mandare in rovina chiunque, l'importanza che emanava con la sua presenza quando entrava in aula o quando incontrava un subalterno, il successo che riscuoteva tra superiori e dipendenti e soprattutto la sua capacità di condurre i processi, tutto ciò lo rallegrava e insieme alle conversazioni con i compagni, i pranzi e le visite riempiva la sua vita. E così la vita di Ivan Ilic in generale continuava a trascorrere come lui riteneva che dovesse trascorrere, in maniera piacevole e decorosa. E così passarono altri 7 anni. La figlia maggiore aveva già compiuto 16 anni, un altro bambino era morto e rimaneva il giovane studente che fu causa di un litigio. Ivan Ilic voleva che frequentasse l'istituto di giurisprudenza, ma Praskovia Fyodorovna, per dispetto, lo iscrisse al ginnasio. La figlia studiava a casa e cresceva bene, e anche il piccolo se la cavava.